Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parto la lontana, parto da Niccolò Machiavelli che nel suo trattato celeberrimo Il Principe sostiene che il fine giustifica i mezzi e non specifica fino a che punto questi mezzi siano giustificabili, fin dove ci si può spingere nel compiere un'azione non correttissima ma magari con uno scopo diciamo pragmatico. Ma vi dico questo non certo perché oggi intendiamo parlare di politica, ma perché oggi raccontiamo la storia di un'attrice francese bravissima, di grande fascino, sensibilità, che ha avuto una vita molto dura, che è stata segnata da un avvenimento che ha rappresentato un trauma al quale si può applicare la teoria di Machiavelli. Perché la domanda è: può un regista, per rendere una scena più realistica, più credibile, tenere l'interprete di quella scena all'oscuro di quanto accadrà? Perché questo avviene, questa è la storia del più famoso tranello nel quale si è cascata un'attrice nella storia del cinema, perché è alla nostra protagonista è capitato questo. La scena è diventata famosissima, una delle scene più famose della storia del cinema del Novecento, e noi vi raccontiamo la sua storia per vedere se riusciremo a rispondere a questo interrogativo. Perché la protagonista di oggi è la delicata, sensibile Maria Schneider, che è diventata famosa in tutto il mondo per la sua interpretazione di Jeanne nel film Ultimo Tango a Parigi, un film discusso a dir poco, di Bernardo Bertolucci con Marlon Brando, un film del 72 che è stato oggetto di controversie legali, di una condanna al rogo della pellicola originale per oltraggio al pudore, un film che è stato poi riabilitato dalla censura, ovviamente oggi non fa più scandalo, anzi ha avuto molti riconoscimenti, è considerato un grande capolavoro, però ai tempi suscitò una incredibile ondata di sdegno. Mi sono innamorata perché ha trovato il modo giusto per farmi innamorare. E tu vuoi che l'uomo che ami ti protegga e abbia cura di te? Certo. Vuoi che questo forte, lucente e possente guerriero costruisca una fortezza dove puoi rifugiarti, in modo che tu non debba mai aver paura, non debba mai sentirti sola, non debba sentirti esclusa. È questo che cerchi, vero? Sì. Non lo troverai mai. Ma io l'ho già trovato. Beh, non passerà molto che si costruirà lui una fortezza per sé, fatta con le tue tette, con la tua vagina, il tuo sorriso e il tuo odore. Una fortezza dove lui si sentirà al sicuro e così stupidamente virile che vorrà la tua riconoscenza sull'altare del suo cazzo. Per dire, no? All'epoca del film Maria Schneider è giovanissima, ha 20 anni e sul set deve interagire con personaggi come Bernardo Bertolucci e con Marlon Brando, che è un mostro sacro del cinema. Probabilmente lei è un po' intimidita, insomma quello che le succede lei lo vive con grande apprensione, lo dirà lei stessa molti anni dopo, e la chiave di lettura di tutto quello che avviene sul set di quel film, ma poi anche dopo, è proprio nella sua età, lei è giovane e nella sua totale mancanza di esperienza. Maria Schneider nasce a Parigi il 27 marzo 1952. Il padre, l'attore Daniel Gélin, famoso per la sua interpretazione nel film di Alfred Hitchcock, L'uomo che sapeva troppo. La madre è Maria Christine Schneider, una modella tedesca di origine romena che a Parigi ha una libreria. Il padre non riconosce la figlia e lei verrà a sapere di chi è figlia solamente nell'adolescenza. Però lei è molto dotata, ha una predisposizione naturale per fare l'attrice, esordisce a 14 anni in teatro senza avere mai ricevuto neanche una lezione di recitazione. A 16 anni ottiene il suo primo ruolo nel cinema, è un piccolo ruolo, il film è L'albero di Natale di Terence Young, e nello stesso anno recita in Medley, Il piacere dell'uomo con Alain Delon, e nel 72, a 20 anni, ha ancora un piccolo ruolo nel film di Roger Vadim, Un corpo da possedere, dove peraltro conoscerà la grande Brigitte Bardot, la ex moglie di Vadim, che avrà sempre con Maria un affetto profondo. Ed è una di queste interpretazioni che colpisce il regista Bernardo Bertolucci, forse per la sua particolarità, per una strana bellezza, per un broncio sempre sulle labbra, per un misto di innocenza, di sensualità. E Maria Schneider in quel momento è veramente la ragazzina carina, ma un pochino fricchettona, perfetta per quegli anni. Ed è perfetta anche per quello che ha in mente Bertolucci, perché lui sta per fare un film che nasce da un suo sogno, nel quale lui incontrava una donna sconosciuta per strada e intrecciava con lei una relazione senza sapere chi fosse. Ecco, Maria Schneider è esattamente la donna che ha immaginato, che ha sognato Bertolucci. È un sogno che faranno molti altri. Insomma, io nel 72 ero molto dispiaciuto di aver 15 anni e quindi di non poter andare a vedere questo Ultimo Tango a Parigi, e non certo per la poesia del film, ma per motivi così un po' più terra terra. D'altra parte ero un ragazzino. Insomma, Maria Schneider con Ultimo Tango a Parigi e la storia di cui diventa protagonista con Marlon Brando si trasforma nel sogno proibito di una generazione e forse di più di una. Il falco e il gabbiano. Così nel 1972 Bernardo Bertolucci sceglie lei, sceglie Maria Schneider come protagonista del suo film Ultimo Tango a Parigi, che è una storia torbida, un film carico di sensualità, di scene erotiche, un film che farà discutere, e lui lo sa già, forse non si immagina fino a che punto, ma è consapevole che sta per girare qualcosa che entrerà nella storia del cinema. Originariamente aveva pensato a Jean-Louis Trintignant, a Dominique Sanda, che erano i protagonisti del suo film precedente Il Conformista, però Trintignant si rifiuta di recitare nudo, la Sanda è incinta e quindi Bertolucci deve andare a Parigi a sviluppare la sua idea. Ascoltate il suo racconto. Marlon Brando non era una prima scelta, ma prima ero stato da Jean-Paul Belmondo e da Alain Delon, perché mi dicevo ci vuole un nome per trovare i soldi per fare questo film. E Belmondo praticamente mi cacciò dal suo ufficio dandomi del pornografo. Invece Alain Delon mi disse: beh, sono molto interessato, però farei il film solo se io potessi essere il produttore. E io gli disse: scusami, ma un film così è troppo delicato che il produttore sia anche il protagonista del film, è un film difficile, è un film un po' estremo, grazie no. Così mi ritrovai solo e così per fortuna mi trovai poi a chiamare Marlon Brando, che misteriosamente accettò. È un nome che salta fuori quasi per caso, quello di Marlon Brando. L'incontro tra il regista e l'attore avviene in un hotel di Parigi. Brando ascolta attentamente il racconto di Bertolucci, gli piace, accetta di fare il film, invita il regista per 2 settimane a casa sua a Los Angeles per parlare con lui, per approfondire la storia, il personaggio, prima di iniziare a girare. Vi dico tutto questo per capire quello che succede sul set a Maria Schneider, perché è importante sapere che tipo di rapporto si instaura tra Bertolucci e Brando. È un rapporto di fiducia reciproca, di complicità, forse anche un po' di complicità tra uomini, e questo probabilmente perché il soggetto non è dei più semplici da realizzare. Ci sono scene di nudo, di sesso esplicito, quindi Bertolucci sa che l'atmosfera sul set deve essere complice, rilassata. E sa anche che Marlon Brando non è proprio un tipo facile, è un divo, ha un carattere particolare. L'approccio con Maria Schneider ovviamente è diverso, intanto perché lei è un'attrice giovanissima e sconosciuta. Bertolucci ha molta esperienza, sa che riuscirà ad avere con lei un ottimo rapporto di lavoro, perché per lei è un'opportunità unica. C'è un film di Bertolucci nel quale reciti con Marlon Brando. E il film racconta la storia di Paul, è un americano di 45 anni che vive a Parigi, che è vedovo perché la moglie si è suicidata, e lui incontra questa ragazza Jeanne, Maria Schneider, in un appartamento in affitto che i due si trovano a visitare casualmente finalmente assieme tra loro scatta un'attrazione passionale immediata. Paul e Jean intrecciano una relazione, diciamo, dei sensi, come la chiama Bertolucci. Non si conoscono, non sanno neanche i rispettivi nomi. E il finale però è tragico, se non l'avete visto ve lo consiglio, anche se è un racconto molto molto forte, è un film che fa parte della storia del cinema. Tango a Parigi passa la storia soprattutto per la sua scena più famosa, che è anche la più forte, è la cosiddetta scena del burro. In realtà il burro nel film, insomma, non serve per cucinare, c'è una scena piuttosto esplicita di sodomia. Questo ci fa tornare alla domanda d'apertura, cioè quanto ci si deve spingere per motivi artistici, quanto ci si può spingere per ottenere da un attore, in questo caso da un'attrice, il massimo della spontaneità. Ascoltiamo il racconto di quello che succede dalle parole dello stesso Bertolucci. La famosa scena del burro nacque mentre Marlon e io, seduti per terra, stavamo discutendo di questa scena d'amore, che era più una scena di stupro che più una scena d'amore. E c'era per terra dei cappuccini, delle baguette, del burro, e ci guardiamo con Marlon. Dopodiché io decido di non dire niente a Maria di quello che si stava preparando. Perché? Perché lei avrebbe rifiutato probabilmente di fare una scena che in teoria capivo poteva essere un po' umiliante, e allora l'ho imbrogliata, non gliel'ho detto e ho lasciato che Marlon la manipolasse come voleva fino a prendere un pezzo di burro nelle mani e di spalmarglielo addosso. Lei che dice no, no, e che grida e si ribella, è Maria che si ribella a me e a Marlon, a che stiamo girando una scena di cui non vi avevamo detto niente. Ecco la parte, come dire, da Machiavelli di cui parlavamo. Il fatto non avviene realmente, cioè non avviene, diciamo, la sodomia, è una recita, però la scena è veramente forte perché lei non sapeva quello che sarebbe accaduto, quindi ha una reazione vera. Lei dice no agli uomini, non all'attore, al regista. Marlon Brando è un uomo piuttosto pesante, lei sta addosso con tutto il suo peso, le impedisce di scappare via. Ah, ci sei? E perché non mi rispondevi? Portami il burro. Ho molta fretta, c'è un tassì che mi aspetta giù. Portami il burro. Quello che mi fa impazzire è che sei così maledettamente sicuro che tornerò qui. Ma cosa credi tu? Che un americano, seduto per terra, in un appartamento vuoto, che mangia formaggio e beve acqua, sia uno spettacolo interessante? Hai paura? No. No? Tu hai sempre paura. Ma cosa fai? Voglio farti un discorso sulla famiglia. Quella santa istituzione inventata per educare i selvaggi alla virtù. E adesso ripeti insieme a me. No, no, no! Ripeti. Avanti, santa famiglia. Santa famiglia, sacrario dei buoni cittadini. Sacrario. Dei buoni cittadini. Dei buoni cittadini. No! È una scena drammatica, come ha ricordato Bertolucci. È più uno stupro che una scena d'amore, come la Schneider pensava. E poi, soprattutto, c'è tutto quel discorso sulla famiglia, che in quegli anni era, come dire, per la prima volta in discussione. E qui Bertolucci ci va pesante con l'enunciazione dei suoi principi. L'intento del regista è chiaro, lui non sta facendo pornografia, stiamo parlando di un numero uno, stiamo parlando di Bertolucci. Lui sta raccontando in maniera drammatica e esplicita una relazione fuori dagli schemi che mette in crisi tutta la società perbenista che precedeva, diciamo, gli anni del grande ribaltamento alla fine degli anni 60. Ottiene il suo risultato perché Ultimo Tango a Parigi è un successo enorme, campione di incassi nella stagione cinematografica 72-73, solo Il Padrino lo supera, e tra l'altro è interpretato anche lì da Marlon Brando. Ultimo Tango a Parigi incassa più della Stangata e dell'Esorcista, 36 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, 100 milioni di dollari nel mondo, è una cifra impressionante, un successo globale, e Maria Schneider diventa diva e sex symbol, diventa la ragazza dell'Ultimo Tango, e lei non è così contenta. Questo film nella sua vita rappresenta un vero e proprio spartiacque. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è una vera e propria icona dell'inizio degli anni 70, una donna però fragile, delicata, sentimentale, con un'immagine pubblica che invece la rappresentava in una maniera opposta, perché stiamo parlando di Maria Schneider, con la sua bellezza particolare, così in sintonia con la bellezza suggestiva di quegli anni, erano gli inizi degli anni 70, e lei diventa famosa in tutto il mondo per la sua interpretazione di Jeanne, la protagonista del film L'ultimo tango a Parigi di Bertolucci con Marlon Brando. E il film però è un film forte, un film che sarà discusso, che avrà un travaglio notevole, e soprattutto subisce una vera e propria gogna, soprattutto nel nostro paese, devo dire, perché viene ritenuto osceno. E questo non solo per la scena, quella incriminata, la scena del burro, ma anche perché il primo rapporto che i due protagonisti hanno è un rapporto che i due hanno appena si sono incontrati, quindi senza, come dire, poesia e corteggiamento. E lei in quella scena simula un orgasmo, e questo in Italia non era assolutamente ammesso. Era l'Italia che pochi anni prima aveva censurato L'ombelico della Carrà, o aveva imposto alle Kessler le calze più spesse affinché non si vedevano le gambe, quindi siamo a quel livello lì, e quindi andare a vedere un film nel quale c'è una donna che simula un orgasmo non va bene. Il documento ufficiale del tribunale parla di esasperato pansessualismo fine a se stesso. C'è un iter giudiziario che comincia, un iter complesso, articolato. Il 2 febbraio del 73 Bertolucci ottiene una prima vittoria parziale, che è una prima assoluzione, poi in secondo grado le cose cambiano. Sentite Bertolucci. In quei mesi tra il febbraio e il giugno del 73 io accompagno il film a Parigi, a Londra, a New York per delle prime, torno, insomma arrivo al processo del giugno, all'appello, così proprio con un overdose di successo internazionale. Quando il Tribunale di Appello legge la sentenza, io non riesco a capire, perché le sentenze sono molto difficili da capire, e penso che sia andato tutto bene. Mi giro e vedo che Grimaldi e gli avvocati della difesa sono diventati molto cupi, e allora a quel punto mi rendo conto che il produttore Alberto Grimaldi, il regista e il sottoscritto, Marlon Brando, forse anche Maria Schneider, siamo stati condannati a 2 mesi di prigione con la condizionale. Eh sì, tutti condannati, e il 29 gennaio del 76 la Cassazione inasprisce ulteriormente la condanna, decidendo qualcosa di veramente assurdo. La Cassazione ha confermato la sentenza di appello. In più, il negativo del film sarà distrutto. Da lì subito grande scandalo sui giornali. Il giorno dopo, la distruzione del negativo viene chiamata il rogo di Ultimo Tango. Io sotto sotto so che il negativo è stato contrabbandato in Francia in questi 2 o 3 anni tra l'appello e la Cassazione. E quindi sarà un discorso simbolico, al punto tale che io propongo di bruciare invece proprio una copia del film a Campo dei Fiori sotto la statua di Giordano Bruno. Sì, le copie si trovavano già all'estero, quindi in realtà Ultimo Tango si salva dalla furia moralizzatrice di questi beceri censori italiani. Poi negli anni Ottanta verrà riabilitato ufficialmente. Ma quello che ci interessa è lei. Cosa succede a Maria Schneider? Perché lei non parla, non rilascia dichiarazioni, subisce una gogna mediatica che per lei è molto più profonda, perché Grimaldi è il produttore, Bertolucci e Marlon Brando hanno le spalle grosse, Brando è abituato agli scandali di ogni genere, lei no, lei è una ragazzina, ne soffre moltissimo. Insomma, Ultimo Tango a Parigi regala a Maria Schneider la fama mondiale, lei entra nella storia del cinema e ha solo 20 anni. Però per lei tutto questo rappresenta qualcosa di molto penoso, perché lei si considera una brava attrice, non vuole essere un sex symbol, non vuole essere ricordata come quella della scena del burro, perché questo è. E a proposito di quella scena, molti anni dopo, nel 2007, lei racconta in una intervista rilasciata a un giornale inglese i suoi sentimenti legati a quell'episodio. Mi hanno quasi violentata. Quella scena non era prevista nella sceneggiatura. Mi sono ribellata, mi sono arrabbiata. Avrei dovuto chiamare il mio agente o il mio avvocato, perché non si può obbligare un attore a fare qualcosa che non è nella sceneggiatura. Ma all'epoca ero troppo giovane e non lo sapevo. Mi sottoposero a quella che ritengo sia stata una vera violenza. Le lacrime che si vedono nel film sono vere? Sono lacrime di umiliazione. E così la vera vittima di Ultimo Tango a Parigi non è il film stesso, che vivrà una seconda giovinezza, verrà riabilitato. La vera vittima è lei, Maria Schneider. Intanto perché il compenso è irrisorio, $5,000, ma soprattutto perché lei viene travolta da un'attenzione morbosa e non ce la fa, chiede aiuto a una sostanza che in quel periodo ha aiutato, se così si può dire, molti, ma in realtà li ha distrutti. Sto parlando dell'eroina, e la colpa, lei sostiene, di tutto questo è dell'immagine che Bertolucci le ha dato nel suo film. Ero triste perché mi trattavano come un sex symbol, ma io volevo essere apprezzata e riconosciuta come attrice. Di quell'esperienza salvo solo il mio incontro con Brando. E lei non si rende conto che Ultimo Tango a Parigi per lei è il film della vita, è quello che ti apre tutte le porte, e dovrebbe capirlo anche quando un altro grandissimo del cinema italiano, Michelangelo Antonioni, la chiama a interpretare come interprete principale Professione Reporter, insieme a un altro mostro sacro, cioè insieme a Jack Nicholson. Sarebbe terribile essere ciechi. Io conoscevo un uomo che era cieco. Quando arrivò all'età di 40 anni si fece fare un'operazione e riacquistò la vista. E cosa ha provato? All'inizio era felice, incantato, ma poi tutto cominciò a cambiare. Il mondo era molto più brutto di come se l'era immaginato. Nessuno gli aveva mai detto quanto sporco fosse, quanta miseria. Vedeva squallore dappertutto. Lei effettivamente sarà molto orgogliosa di quel film. Sentiamo una sua rara intervista nella quale tra l'altro lei parla in italiano. È uno dei film più vicini a me stesso. Michelangelo per me è un grande, grande maestro. Era in anticipo, i suoi film non sono invecchiati. È in una crisi molto profonda perché non ha saputo gestire l'enorme successo, è diventata eroinomane, ha chiuso tutti i rapporti naturalmente con Bertolucci, ma non è capace di gestire neanche il suo presente. Nel 78, dopo aver rifiutato di rivedere Bertolucci per tutta una vita, accetta di girare un film con Tinto Brass. Tinto Brass è uno del quale si sa, diciamo, qual è la sua linea editoriale. Il film è Caligola, verrà sequestrato per oscenità, lei accetta, poi si rifiuta di girare le scene di nudo, cosa strana, perché cosa ti aspetti da Tinto Brass? E quindi viene licenziata, ha una crisi di nervi, viene ricoverata a Roma in un ospedale psichiatrico, ne esce devastata, l'anno dopo tenta anche il suicidio. Poi si riprende e interpreta ancora dei film, alcuni anche in Italia, Cercasi Gesù di Comencini dell'82, Janeire di Zeffirelli nel 96, poi gira dei film per la TV francese, anche una bellissima serie del commissario Maigret, è una amante della musica, ma anche lì diciamo fa delle scelte piuttosto discutibili, con tutto il rispetto. Produce assieme all'amico Cristiano Malgioglio un disco dedicato a Lucio Battisti e canta un duetto proprio con Malgioglio. Ancora tu non mi sorprendi, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Ma poi si ammala probabilmente perché il fisico è minato dall'uso degli stupefacenti, abbandona il mondo dello spettacolo. Nel 2007 c'è il 35esimo anniversario di Ultimo Tango a Parigi, le chiedono di fare una dichiarazione dopo tutti quegli anni e lei esclude categoricamente una sua partecipazione ai festeggiamenti. Dice: ho smesso col cinema, faccio una vita normale, vedo gli amici, cucino e non uso più il burro, solo olio d'oliva. Poi si spegne, muore di cancro ai polmoni il 3 febbraio del 2011 a Parigi. È morta a soli 58 anni dopo una lunga malattia l'attrice Maria Schneider, indimenticabile protagonista insieme a Marlon Brando del film Scandalo di Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi. Il ricordo di Vincenzo Mollica. Aveva un carattere fragile Maria Schneider, ma nello stesso tempo ha vissuto di grandi passioni. Bernardo Bertolucci probabilmente doveva delle scuse a Maria Schneider, scuse che sono arrivate molto tempo dopo. Quando è morta la povera Maria, qualcuno mi chiese una brevissima dichiarazione e dissi naturalmente che era morta troppo giovane. Troppo giovane anche prima che io potessi, tanti anni dopo, a chiederle scusa per qualcosa che è avvenuto durante le riprese di Ultimo Tango. Scuse che arrivano dopo, come spesso accade nella vita. Ci sono persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, che sono salite molto in alto e forse proprio per quel colpo d'ala hanno pagato un conto così salato alla vita, perché bisogna anche saperli gestire, certi colpi d'ala, e questo è quello che Maria Schneider non è riuscita a fare. E ognuno di noi nella vita può salire, può cadere, ma l'importante è anche sapere volare con equilibrio. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure al nostro sito, oppure venite a cercarmi nei miei social, Facebook, Twitter, nei nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.